425. Piselli alla francese seconda maniera. Questa ricetta è più semplice e più sbrigativa della precedente, ma non è però così fine. Trinciate alquanta cipolla a fette sottilissime e mettetela al fuoco in una cazzaruola con un pezzo di burro. Quando sarà ben rosolata, versate un pizzico di farina, mescolate e dopo aggiungete, a seconda della quantità, un ramaiolo o due di brodo e lasciate cuocere la farina. Versate i piselli, conditeli con sale e pepe e a mezza cottura aggiungete un grumolo o due interi di lattuga. Fate bollire ad agio, badando che il sugo non riesca troppo denso. Alcuni indolciscono i piselli con un cucchiaino di zucchero, ma in questo caso mettetene poco, perché il dolce deve sembrare naturale e non messo ad arte. Quando li servite, levate la lattuga.